Mix24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Enrico Rossi, 58 anni, toscano di Pontedera, città di cui è stato sindaco dal 90 al 99, presidente della regione toscana dal 2010, rieletto nel 2015 per il secondo mandato. Nel settembre dello stesso anno annuncia la sua intenzione di candidarsi alla segreteria del PD contro Renzi nel 2017. Figlio di un camionista, si laurea in filosofia a Pisa con pieni voti, diventa funzionario di partito, il PC, e inizia la scalata. Il suo libro preferito è L'Odissea, dove dice c'è tutto. Il cantante preferito è Lou Reed, il film più amato Blade Runner. Nel 2014 un sondaggio lo incorona come il numero uno tra i presidenti delle regioni italiane. Qualcuno di lui ha detto è un rottamatore, sì, ma un rottamatore dolce. Allora, presidente, rottamatore dolce le piace? Sì, è uno simbolo che mi può andare bene. Perché? Beh, perché mette insieme sia la necessità di cambiare e quindi di rompere con gli schemi del passato, ma allo stesso tempo di non produrre fratture con una certa storia, quindi, quella della sinistra. Quindi la rottamazione era una richiesta profonda della società, ma andava fatta un po' più dolcemente, questo? La rottamazione è una richiesta che forse con altre parole la sinistra avrebbe dovuto capire prima di Renzi. Senta, D'Alema andava rottamato allora con più educazione, così? D'Alema e altri del gruppo dirigente del PD avrebbero dovuto essere sostituiti nel momento in cui sono stati sconfitti. Senta, ma rottamare D'Alema e presentare tutti i libri di Bruno Vespa come fa Renzi è coerente oppure no? No, non è coerente perché io penso che si sarebbe dovuto rinnovare quella storia piuttosto che cercare a 360 gradi senza un orientamento e una bussola precisa. Senta, ma quando il rottamatore feroce Renzi ha vinto le primarie, lei ha detto non è un bel giorno per la sinistra, perché? Beh, oggi direi che è un buon giorno per ricominciare una storia della sinistra. Quindi non lo ridirebbe più? Senz'altro allora non fu un buon giorno, avremmo dovuto piuttosto iniziare a discutere il perché di questa sconfitta e quindi da lì ripartire. Un po' lo si è fatto e quindi allora si può dire che quello è stato un buon giorno per poter ripartire. Da una sconfitta si può ripartire. Va bene. Senta, il Renzi Premier, in che cosa è diverso dal Renzi Sindaco che lei conosceva? Ma mi pare che le questioni oggettive che lo impegnano lo costringano ad una... Cioè l'ha sorpreso in meglio sostanzialmente? Direi di sì. Ma perché? Beh, perché appunto sui temi si impegna e mostra una volontà di cambiamento. Capisce in fretta, è veloce. Questo lo faceva anche da sindaco, ma qui mi pare che dimostra una coerenza di impegno più forte di quella che aveva quando era sindaco. E quindi che voto darebbe a Renzi Premier finora? Beh, un 6,5 per le misure prese e qualcosa di più per la capacità di tenuta politica del paese in una situazione difficile. E a Renzi segretario del PD che voto dà? Un 5 meno meno, insomma. 5 anche, meno meno, perché? Anche un po' meno. Perché? Beh, perché mi pare che il partito non si sia riorganizzato e anche non vedo al momento delle prospettive di rinnovamento. Cioè non gli interessa tanto il partito, secondo lei, a Renzi? Renzi ha da fare molto come premier. Senta, lei ha detto io sono alternativo a Renzi, ma non anti-renziano. Sembra un democristiano più che... No, è il sentimento che ha la nostra base. Renzi ha vinto, una parte della base del PD lo ha votato convintamente, anche quella più a sinistra. Deve essere messa alla prova, quindi deve essere supportato senza per questo diventare necessariamente renziano. Vabbè, senta, mi dica in che cosa si sente alternativo, per essere semplici. Mi sento alternativo innanzitutto per una storia politica che, ripeto, va rinnovata, è quella della sinistra italiana. E lui lo sta facendo. E lui lo sta rottamando, che è un'altra parola. Costruisce, insomma, un'altra cosa. Costruisce qualcos'altro, forse costruisce anche un'altra cosa. Bisogna essere alternative a Renzi in un'idea di partito che al momento non vedo in campo, non si sente. Noi qualche idea, credo, dobbiamo metterla in campo. Ma per capire bene... Tony Blair è un modello per Renzi, lo è anche per lei? No, io non sono mai stato per Tony Blair perché Tony Blair sta troppo dentro le compatibilità di questa società, di questo sistema, è troppo succube anche rispetto ai poteri forti, al capitalismo finanziario, rinuncia un po' alla rappresentanza di quei gruppi di un blocco sociale. Di un blocco sociale. Ecco, quindi... Quindi lei dice il blairismo è una malattia mortale della sinistra perché non rappresenta un blocco sociale? Dovunque la sinistra in questo periodo è stata sconfitta, quando invece la crisi avrebbe potuto aprire delle prospettive di rilancio della stessa ma sinistra. Ma secondo lei Renzi è stato contagiato dalla malattia del blairismo? Ma Renzi si è dipinto come una versione italiana del blairismo, credo che però siano passati tanti anni e che sia anche un'altra cosa, e l'Italia ovviamente non è l'Inghilterra. Ma allora dica semplicemente, il punto qualificante del suo PD quale dovrebbe essere, visto che lei è alternativo? Beh, ripartire dalla costruzione di un blocco sociale, come lei diceva, che mette al centro i lavoratori, il lavoro, la piccola impresa, si allea anche con tutto il capitale sano che vuole investire e punta ad un rinnovamento del paese. Renzi su questo sicuramente ha rotto degli schemi, ma certamente rischia di perdere il punto fondamentale di partenza, che era quello della sinistra, e cioè le classi più umili, quelle più oppresse, chi ha bisogno di essere insomma protetto. è più di sinistra il Papa di Renzi. Beh sì, in certo senso sì. Senta, quindi D'Alema che dice Renzi è una versione di sinistra di Berlusconi, è vero secondo lei? Ma insomma non credo che si possa ridurre a questo. È un'altra cosa ancora più diversa. È un'altra cosa che certo del periodo di Berlusconi ha adottato una serie di schemi e di meccanismi nel fare politica. Ma usa bene i media. Usa bene i media, senz'altro. Ma quello è un valore. Ma Renzi si presenta in un altro modo. Semmai direi che il suo, per quanto in termini di rottamazione, dopo un lungo periodo anche di stagnazione del paese, è un riformismo, a mio parere, troppo debole, poco troppo radicale. Ma se dipendesse da lei, il doppio ruolo premier e segretario lo conserverebbe, Presidente Rossi? Ma io credo che il premier deve comandare, però bisogna che ci sia anche un'autonomia insomma, del partito. Insomma, sì o no? No. Quindi bisogna dividere. Che bisogna che ci sia un'intesa, come esiste in altri partiti socialisti europei, per cui c'è un premier, ma c'è anche un segretario di partito che ha una sua autonomia. Quindi lei conferma la notizia, Rossi si presenta alla guida del partito nel 2017 contro Renzi, così? Sì, sì, mi voglio presentare. Ma non è un po' presto per farlo? No, io parto, sono stato da ragazzo, facevo la corsa campestre. Ah, quindi la prende lontana. E quindi la prendo lontana. Ma il suo slogan è ancora il PD deve viaggiare in seconda classe? Sì, anche in terza magari. Anche perché non ci sono più, per fortuna l'hanno tolte. Senta, ma perché il PD di Renzi in che classe viaggia secondo lei? Beh, la terza classe però è quella di tanti pendolari locali che non hanno ancora, cioè, purtroppo mezzi una classe adeguati, unica quella. Senta, e quello di Renzi in che classe viaggia? Ma Renzi le attraversa un po' tutte le classi, forse questo è un po' il limite. Allora è bravo. Sì, è bravo, ma rischia secondo me di disperdersi e rischia di disancorare gruppi sociali importanti che devono guardare a sinistra, che devono guardare al nostro partito. Senta, insomma, dunque, il risultato tra il duello tra Pontassieve di Renzi e la Pontedera di Rossi... Sempre sui ponti. Ecco, sempre sui ponti, lo vedremo, meglio i ponti dei muri, lo vedremo al prossimo congresso. Insomma, sì, il mio obiettivo è di riorganizzare dentro il PD una componente di sinistra forte e rinnovata. E quelli che sono andati hanno fatto male per adesso? Beh, quelli che sono andati sono stati sconfitti, no? No, ma che sono usciti dal PD. Sì, est ecclesiam nulla salus, ho sempre detto. Senta... Parliamo del Renzi Premier, allora, quello da 6,5-7 che diceva lei. È d'accordo sul fatto che la riforma numero uno da fare fosse quella istituzionale? Eh? Era un impegno che era stato preso all'insediamento della nuova legislatura di fronte al capo quindi dello Stato. Sì. E bicameralismo, insomma, va superato e archiviato. È un'idea della sinistra non recente, piuttosto antica. Senta, ma il Senato così come è stato pensato è ok o no? Poteva essere fatto meglio, ma i territori sono rappresentati attraverso le regioni e questo è positivo. E quindi va bene. Della legge di stabilità, che cosa le piace? Mi piace il fatto che si dà una mano a chi investe. Ma per esempio lei l'IMU sulla prima casa l'avrebbe tolta? Non come ha fatto Renzi. Cioè? Chi può pagarla deve pagarla. Qual era la... fin dove? Ma veniva fuori, secondo alcuni calcoli che aveva fatto Prodi, che 1,5 miliardi, 1,8 miliardi si poteva salvare. Cioè poteva essere pagato da chi ha certi redditi. Poi bisogna fare la riforma del catasto, tutte cose vere. Questo, ma liberare tutti, banda libera tutti, è un messaggio che non condivido perché va contro l'idea della progressività delle tasse. Ma è la soglia dei 3.000 euro per il contante, va bene? No, è un altro errore. La tracciabilità è fondamentale per combattere l'evasione fiscale. E se i 3.000 euro sono veramente lo strumento dell'evasione? No, non è lo strumento dell'evasione, però se si vuole combattere l'evasione sia nel settore dell'IVA, che è importantissimo, bisogna tracciare. E bisogna tracciare anche, e questo invece è positivo, ad esempio nei bar, ad esempio negli esercizi commerciali, se si dice che 3.000 euro stanno fuori, beh, si consente che una parte vada al nero, insomma. Senta, il messaggio ma, è questo. Ma cosa manca nella legge di stabilità che sarebbe stato indispensabile secondo lei? Beh, dopo la riforma del Job Act, data la situazione del paese, manca l'inizio di una legge a protezione della povertà. E questo poteva essere fatto. Oppure il salario minimo. No, c'è una proposta molto bella di Caritas e di altre associazioni, ARCI, sindacati e altro, che si chiama reddito di inclusione sociale. Sì. A regime nell'arco di 4 anni. Quella dei 5 Stelle più vale, o meno. No, è un'altra cosa, quella dei 5 Stelle è demagogica, costa 19 miliardi, questa costa 7 miliardi. Ed e dopo possibile. La riforma del Job Act andava assolutamente fatta. Sì. Perché il Job Act estende le protezioni, ma riduce il periodo di protezione. Senta, ma la legge Madia sulla riforma della pubblica amministrazione è stata votata a luglio, ma i decreti attuativi dovevano arrivare domani, non venerdì, ma invece non si vedono ancora. Perché? Ma è perché probabilmente ci sono delle difficoltà. Un conto è stabilire principi. Noi le aspettiamo volentieri perché riformare e rendere più efficiente. Beh, lì c'è la spesa, c'è un'enormità di spesa da tagliare nella pubblica amministrazione, o no? Sì, c'è anche però da pensare che va riqualificata. Sì, lei ma sa, senta, che 5 commissari della spending review, 4 fatti fuori, cioè che si sono buttato la spugna. Che cosa vuol dire secondo lei? Vuol dire che è difficile metterci le mani. Io credo che bisognerebbe responsabilizzare molto i centri locali, le regioni e gli enti locali, certo, e anche altre istituzioni. Altrimenti non si riesce ad aggredirla solo con provvedimenti nazionali. Senta, e poi il problema è che ci sono i giovani che non entrano più nella pubblica amministrazione. Senta, bisognerebbe far entrare trovare un po' il modo loro di farli entrare. Senta, ma è anche un timore elettorale in vista delle amministrative, secondo lei, questo rinvio? Ma no, non credo. No. Renzi non mi pare che abbia questi timori. No. Riesce bene su queste materie a costruire il consenso. Ma lei teme, come Renzi, in qualche modo l'esito delle elezioni di primavera? Sì. Perché? Beh, perché? Perché se da un lato il PD a livello nazionale mi pare viene visto da tanti cittadini come un punto di riferimento per certi aspetti insostituibile per il bene del paese, a livello territoriale non è così. No. E quindi ci sono situazioni di criticità. E Renzi ha detto, infatti, il mio appuntamento politico è il referendum sulle riforme, ha ragione. Sì, ma lo misureranno anche sulle amministrative. E quindi... Cioè, di fronte alla sconfitta alle amministrative, Renzi segretario che deve fare? Se ne deve andare, eh? No, questo secondo me fu un errore commesso anche da D'Alema. Quindi bisogna soltanto migliorare la presa del partito sul territorio. Sì. Lei dice che vorrebbe un renzismo di sinistra. Renzismo di sinistra cosa vuol dire? Un po' quello che vuol ha detto. Vuol dire che la stessa energia con cui Renzi è riuscito a fare certe riforme, Job Act o altro, dovrebbe essere messa, ad esempio, appunto, per rilanciare investimenti, per creare più lavoro e per proteggere la parte più povera della popolazione. Però c'è anche una congiuntura internazionale che aiuta poco nel creare lavoro. Sì, c'è una crisi del socialismo europeo, un altro punto su cui Renzi si dovrebbe impegnare oltre che battere i cazzotti sul tavolino. Ecco, ma quella di Renzi è una legge di stabilità finanziata in deficit che scommette sullo sviluppo, ma questo sviluppo ci sarà? Ma i venti di guerra che sentiamo e anche le criticità della Cina non fanno sperare poi così bene. E in Europa sono prudenti rispetto alla legge di stabilità? L'ha detto anche lei un po', insomma, la politica dei pugni sul tavolo per far passare la legge di stabilità in Europa non è detto che basti, eh? No, bisogna portare a casa anche dei risultati, qualcosa è stato fatto, e però bisogna riuscire anche a contestare le politiche del rigore e dell'austerità. Cioè, l'Europa guida tedesca, basta? Basta, sì, penso basta, proprio di sì, basta. Soprattutto le idee. Ora, qualcosa si muove, ho visto... Innanzitutto nel sud Europa, il Portogallo, la Spagna, il socialismo qui sta riprendendo una dimensione alternativa alla destra. Qualcosa si muove anche nella socialdemocrazia. E questo convergere verso il centro, che secondo me è sbagliato. Ecco, questa Europa dei burocrati è sempre più lontana dai popoli. Renzi dice, lo ripete, non bisogna più andare in Europa col cappello in mano. Però lo diceva anche Tsipras. Potrebbe finire nello stesso modo? Beh, Tsipras comunque ha fatto un'operazione, è riuscito a costruire un consenso nel paese su un'idea diversa di Europa, e se questo finisse anche con l'intervento che sta facendo Renzi, perché ma no? Ma poi ha dovuto sacrificare Varoufakis. qualcosa si perde sempre. No. Senta, Presidente Rossi, l'abbiamo detto, secondo un sondaggio lei è il Presidente di Regione più amato dai cittadini. Ma qual è il segreto del suo successo? Lavorare, lavorare, lavorare. Lavorare, lavorare, lavorare. Ma è vero che vuol fare della Toscana la Baviera dell'Italia centrale? Cosa vuol dire? Beh, mi piacerebbe che la Toscana fosse una regione europea a tutti i livelli e qui l'Europa può darci una mano. Senta, ma anche lei come Zaia, Emiliano e altri presidenti pensa che le regioni vadano abolite? No, io penso che vadano riorganizzate con ruoli nuovi che ma peraltro... Ma ridotte a quanto? Ma ridotte. Una decina, se ne parlava già negli anni 70. Una decina, qualcuno altrimenti dice 3, in Europa... tre o quattro rischia di produrre una divisione del paese. Una decina invece secondo me... Ma con quali competenze precise? Quelle individuate dalla nuova Costituzione che sancisce... Uno, due, tre. Beh, noi ci dobbiamo occupare di ambiente, ci dobbiamo occupare di formazione, ci dobbiamo occupare di politiche comunitarie, dobbiamo occupare di sanità. Ecco, sulla sanità il problema è molto dibattuto. Secondo il ministro del governo Renzi, la Lorenzini, invece le competenze devono ritornare al centro. Sentiamo cosa ci ha detto. Questa sanità delegata alle regioni è stato un errore fatale. Per me sì. Fatale però. Per me fatale. Fatale perché alla fine il risultato lo vediamo. Ecco, ma è irrimediabile. Dobbiamo rassegnarci a questo disastro, punto. Non ci si può rassegnare. Ecco, allora lei si sente di dire basta sanità alle regioni, è stato un errore? Io lo dico sempre. Lo ridica. Sono anche un po' isolata. Per me è stato un grande errore questa riforma. Ora però va gestita. Insomma, errore fatale, dice Lorenzin. Lei dice che deve restare... È il suo governo, come la mettiamo? Con una rottamazione dolce, diciamo. Bisogna rottamare dolcemente. Lei comunque... Però anche quello che ha detto la Lorenzin non tiene, nel senso che noi gli portiamo tutti i conti domani e poi vediamo cosa fa alla fine dell'anno. Cioè, la Corte quindi... dei Conti ha riconosciuto che le regioni hanno dato il maggior contributo attraverso la riduzione della spesa sanitaria alla tenuta quindi, dei conti diciamo del così, paese. Diciamo così. Ci vuole un governo anche nazionale della sanità, un monitoraggio su quello che fanno le regioni, però se questo governo pensa di tagliare tutto ciò che sta nel mezzo non ce la fa. Rossi, e non ce la fa neppure la Lorenzin. Rossi dice, Lorenzin, mettiti il cuore in pace, hai torto. No, bisogna che lei faccia il suo mestiere e che noi si faccia il nostro. Se non lo facciamo, che si sia sostituiti. Intanto lei ha ridotto le ASL da 12 a 3. Ecco... Ne ha risentito il servizio? No, la vera scommessa è che con tre ASL noi si possa riorganizzare il servizio per darlo con più qualità ai cittadini. E quindi ha tagliato tanti sprechi? No, si tratta di... Immagino, sì, da 12 a 3 qualche spreco l'aveva tagliato. È un po' più complicato. In un'azienda o in un giornale quando ci si riorganizza non si può parlare solo di sprechi. No, però... Si cerca di dare un servizio meglio spendendo di meno. Vabbè, dei tagli li ha fatti. Diciamo dei tagli e la lotta agli sprechi, va bene. Va bene. Presidente Rossi, senti, lei, l'abbiamo detto, è laureato in filosofia, voleva fare il professore, poi è diventato politico di professione. Perché? Ma perché mi fu proposto, avevo fatto domanda per fare il professore, lavoravo anche in un giornale, però quando mi dissero vuoi fare politica a tempo pieno, cascai come una pera. Insomma. Era una passione forte. Era una passione, sì. Ma quindi per lei politico di professione non è un insulto? Ma no, assolutamente. Ma a che condizioni non è un insulto? A condizione di non fare mai i propri interessi, di servire i cittadini che ti hanno eletto e di mantenere quella passione lì, perché se la perdi è meglio fare qualcos'altro. Ecco, adesso si vota, ma in molte città, Renzi lo stavamo dicendo, fa fatica a trovare un candidato forte. Perché? Perché il partito non è più organizzato sui territori e questo è un grande limite che pagheremo purtroppo. Ma a Milano il candidato di Renzi è Sala, che è un uomo di Tronchetti Provera, della Moratti, va bene anche per il PD. Ma dicono che va bene anche per il PD, vedremo i risultati. A Napoli c'è Bassolino, ha senso? Io sono amico di Bassolino, ma non si ritorna mai due volte nel luogo del delitto. Cioè non ha senso? Ho detto così. Se poi non ci sono altre candidature, io auguro che vinca e siamo disposti a dare una mano. Vabbè, qui è molto Doroteo. Diciamo. Ci sono dei problemi, poi non sta a me risolverli. Senta, a proposito di campagna, al posto del presidente De Luca lei si sarebbe dimesso? No. Perché? Beh, perché bisogna essere, ormai la storia del paese negli ultimi anni ce lo dice, garantisti fino in fondo. Ecco. Senta, Presidente Rossi, la Toscana nel pieno della bufera bancaria, con il decreto salva banche, il governo l'ha fatta la cosa giusta? Io penso di sì, doveva fare qualcosa di più, proteggere di più gli obbligazionisti. Cioè chi ha perso i soldi inconsapevolmente perché era mal informato deve riaverli tutti? Ma tutti o una parte, ci sarà qualcosa che viene messo da parte delle autorità competenti, e poi, però se ci si pensava prima si sarebbe evitato tutta questa confusione. Cioè, Anche il bail-in votato senza accorgersene, quasi, eh? È stato io un non problema. Sono contrario al bail-in, purtroppo. No, ma però non ci si è preparati. Non ci si è preparati, da una parte, forse ci si doveva pensare di più ai tempi di Monti. Infatti, i tedeschi l'hanno fatto con le loro banche. I tedeschi l'hanno fatto, noi abbiamo purtroppo un debito che ci mette in difficoltà, ma magari avremmo dovuto dire di più la nostra. A proposito della ripresa, io temo molto che questo tema delle banche e del credito possa essere davvero uno dei punti critici. In che senso? Cioè, nel senso che la gente si spaventa e non investe più, porta via i la depositi. La notizia di oggi che si stanno ritirando molti soldi. Si stanno ritirando di i depositi. Questo è drammatico perché poi vuol dire che mancheranno i soldi per investire alle famiglie e alle imprese. Quindi forse è il tema più grosso che c'è in pista. A proposito della Banca Etruria, un'icona della sinistra come Roberto Saviano. No, è Saviano l'icona della sinistra. Ecco. Ha denunciato il conflitto di interessi del ministro Boschi. Lei ha detto è un imbarbarimento disgustoso. Perché? Ma sì, insomma, non si può far ricadere le responsabilità dei padri sui figli. Tutto qui. In questo senso, ecco. Cioè, secondo lei la mozione di sfiducia per il ministro Boschi era il liberale giustizialista? Ma è un paese questo che perde il senso della misura. Io avrei discusso piuttosto della crisi del sistema bancario e di come uscirne. Chiediamo questo a Renzi, al governo, e ci dia delle risposte. Più importante, sì, certo. Mi sembra che il resto è stato persino per l'opposizione che l'ha fatto un boomerang. Ecco, però, Presidente Rossi, all'epoca anche il ministro Cancellieri, lei lo ricorderà, secondo il procuratore di Torino Giancarlo Caselli, non aveva avuto nessun comportamento penalmente rilevante. Eppure fu proprio la Boschi in Parlamento a chiedere le dimissioni della Cancellieri. Senta qui. Perché non è tanto capire se ci debbono essere o meno le dimissioni del ministro Cancellieri, se viene meno la fiducia nei confronti del governo. Il punto vero è che è in gioco la fiducia nei confronti delle istituzioni. Il ministro Cancellieri può decidere di dimettersi, il presidente Letta può decidere di chiedere le dimissioni come ha fatto in passato in altre occasioni con Josefa Idem. Nell'una e nell'altro l'hanno fatto ad oggi, quindi non spetta a me dire si deve dimettere. Io posso dire che al suo posto l'avrei fatto, mi sarei dimessa. Ecco. Sono due pesi e due misure, eh? Oppure no? Un po' sì, e bisognerebbe smettere di usare la magistratura e le inchieste nella lotta politica. È una malattia del paese che ha origini antiche. Cioè va bene così, insomma. No, credo che anche da questi episodi bisognerebbe trarne tutti insegnamento, ad evitare di usare... La magistratura deve fare il suo mestiere, deve indagare. Le sentenze quando arrivano in giudicato valgono e se ne prende atto. La politica dovrebbe non condizionare attraverso dibattito, attraverso incentivi a fare o a disfare le indagini e il ruolo che deve avere la magistratura. Senta, Presidente Rossi, un'ultima cosa. Ma almeno la Fiorentina vi unisce, lei e Renzi? No, sono dell'Inter. Ah, dell'Inter, mamma mia. Mamma mia. Un disastro. 800-24-0024, numero verde, 349-238-6666, l'SMS. Pubblicità. Mix 24. Beh, Rossi Renzi sarà uno scontro, Mario? Che dici? Che titolo facciamo? L'antagonista. Beh, si è presentato come tale, mi pare. E tu, Pietrangelo, che dici? Il partito sono io. Accidenti. Sarà un bel match, ovviamente. Sarà un bel match. O no? Sarà un bel match o no? Sì, ma anche perché lo conosce. Guarda che Renzi è forte. È certo che è forte. Sarà forte, ma quello lo conosce. E quindi sì, è però è espressione di un partito che non c'è più. Che non c'è più. Cioè, onorevolissima persona. Sì. No, dice... Niente da dire di personale. No, non parlo personalmente. Su Rossi, cioè, però mi chiedo. L'esistenza sul blocco sociale, certo. C'è un blocco sociale di sinistra, ma non è quello più del PD, di quel PD là, quantomeno. va ridentificato. Sì. Ma insomma, diciamo magari sperimentalmente, violentemente, però Renzi questo lavoro lo fa. Sì, assolutamente. Questo lo fa. Cioè, in questo è bravo, bisogna dire la verità. Molto. In cosa non è bravo? Non è bravo, ma diciamo bravo in tutto, tutti scusa, lo diciamo tutti. Tu dici sempre in che cosa non è bravo, noi correggiamo, aggiustiamo. Tanto, no, no, e intanto andiamo con le canzoni, che andiamo, cosa ci fa sentire tanto oggi? Allora, togliersi l'inverno dalla testa. Ed è quello che pensa il gelsomino intirizzito dalle mattinate sulle ringhiere che sono gelate. Ma domani è il giorno in cui arriverà la pioggia e si scioglieranno le nubi. E questo ha pensato il gelsomino, che ha telefonato stamattina chiedendo questa canzone e dedicarla al re che arriva a cavallo, a Gengis Khan. Mario. Gengis Khan. E tu dove ci porti? Noi andiamo in 2-3 posti, dai. Stiamo in Italia. Però. Run, boy, run. This world is not bad for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Oh, vi dico subito che stamattina ho lasciato fare le scelte musicali ad altri. Ah, sì, eh? Come mai? Ma così, ho detto. Vabbè, delegato? Dai, Gloria. Ah, Gloria. Sì. Ho detto, questa Gloria. È Gloria, è la Guerrera. Gloria. Vabbè, ti dissoci, mi sembra. No, però, insomma, può essere interessante. La regia ce lo fa sentire ancora. La playlist della Guerrera, sì, no. Con quegli occhioni la Guerrera può fare ciò che vuole. Allora, Giovanni, la Camera ieri sera ha approvato il decreto dell'Ilva. Tu sai che adesso passa al Senato, 297 voti favorevoli, 164 contrari, 2 astenuti, e fin qui siamo, diciamo, alla nuda cronaca. Quanto è costata la vicenda dell'Ilva? Io lo ricordo perché il Sole 24 Ore fece fare qualche mese fa una stima da Svimez. Tenetevi forte, sono 10 miliardi di euro. 10 miliardi di euro? Di impatto di questa cosa. E mancata produzione, indotto che va male, l'azienda espropriata. Insomma, un disastro dal quale secondo me emerge in un certo senso il fallimento di questo massiccio intervento pubblico. Da una parte la magistratura, dall'altra lo Stato. Adesso dovrà essere venduta, costerà ancora. Ho letto stamattina che Cassa Depositi e Prestiti vuole addirittura farsi capofila per un intervento di acquisto, sostanzialmente. Io, insomma, tutta questa roba ci costerà un punto di PIL. Io dico, si poteva fare giustizia senza fare l'esproprio, fare i risanamenti, accertare le Ho responsabilità. L'idea di ridarla ai Riva? Ma io non avrei tolto la potestà dell'imprenditore su quella roba là. Cioè, e mi stupisce anche che gli industriali abbiano lasciato fare così, come se niente fosse. In realtà è un precedente grave. Certo, grave. Punto di PIL. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. E hanno avuto problemi con il livello dell'acqua del reattore. Possono aver corso il rischio di scoprire il nocciolo. Se il nocciolo è scoperto, per qualsiasi ragione, l'uranio si riscalda oltre i limiti di tolleranza, in pochissimi minuti. Appena incontra una falda d'acqua sotterranea, esplode nell'atmosfera. Il numero di persone uccise dipenderebbe dalla direzione del vento, per non parlare dei casi di cancro che si avrebbero in seguito. È chiaro che il nucleare ha avuto molti sviluppi, ma il nucleare di oggi è fondamentalmente quello di ieri, basato su idee che facevano parte di quello che Fermi aveva fatto negli anni 40. Tutti questi argomenti oggi sono profondamente cambiati. E quindi se vogliamo continuare a utilizzare i nuclei, che mi sembra giusto, dovremmo anche cambiare quelle che sono le regole del gioco, utilizzare un nucleare basato su elementi e su condizioni che sono fondamentalmente diverse da quelle che erano ieri. Ecco, era Carlo Rubbia, premio Nobel per la fisica del 1984, che proprio per il suo impegno nel settore dell'energia pulita ha da poco ricevuto il più alto riconoscimento previsto dalla Cina per la scienza. Paolo Catapano, giornalista scientifica, responsabile della comunicazione del CERN di Ginevra, buongiorno, è stata collaboratrice di Carlo Rubbia. Ecco, dottoressa Catapano, perché proprio dalla Cina questo riconoscimento? Sappiamo i problemi della Cina. Sì, perché il professor Rubbia intanto dal 2015 presiede un istituto per l'energia sostenibile dell'Università Tecnologica di Yangtze. E poi la Cina sicuramente ha voluto riconoscere l'impegno appunto che hai ricordato, ecco, professore in queste ricerche per produzione di energia pulita. Ecco, ma può spiegarci in parole semplici di quale tipo di impegni e di studi si tratta? Diciamo, Rubbia ha sviluppato molte idee in campi di energia sostenibile, dal nucleare al solare, ma credo che la Cina gli sia particolarmente grata per lo sviluppo del nucleare sostenibile, quindi con centrali sottocritiche, centrali che non generano scorie e che si possono spegnere quando si vuole. Sono centrali basate sull'uso di un elemento diverso dall'uranio, che è il torio. Il torio è un elemento non fissile, quindi proprio per questo non genera proliferazione, non genera reazioni a catene, non si possono fare bombe col torio. E inoltre le scorie radioattive sono quasi inesistenti, sono molto più gestibili, sono facilmente... Quindi è un gran passo avanti, Un gran passo avanti, addirittura ecco. Nel disegno di Rubbia con le scorie si alimenta il reattore stesso, per cui veramente una volta che... Ciclo chiuso praticamente. Assolutamente, entro 10 anni dalla partenza il ciclo diventa chiuso. Ecco, ieri è stato un mese... dalla conclusione della conferenza di Parigi sul clima. La decisione più importante, se non mi sbaglio, è stata quella di contenere entro 2 gradi il riscaldamento del pianeta. In che modo e entro quando? Sì, diciamo, la decisione più importante è tecnica, sì, ma diciamo il significato vero di COP21 è che finalmente l'Europa ha deciso di fare la svolta nell'investimento di energie verdi, di economia verde. La parola chiave è abbandonare, come diceva Rubbia nel blog all'inizio, abbandonare le tecnologie vecchie ad alte emissioni di CO2 e altri gas serra, investire nelle green economy, che non sono un sacrificio per l'economia, ma sono un business redditizio, perché porta innovazione, crea nuovi posti di lavoro, oltre a ridurre le emissioni di cui abbiamo assolutamente bisogno. Ecco, insomma, non è un caso che la Cina abbia investito nelle centrali di Rubbia. Certo. Loro hanno molto più bisogno di noi, diciamo, sono molto più in emergenza rispetto a noi. Però insomma, hanno investito già dal 2011 in queste tecnologie. Ecco, insomma, c'è da sperare. C'è da fare questa svolta. Ci sono molte sacrifici. No, ma c'è da sperare che si faccia, insomma, che sia una strada che comincia davvero a essere intrapresa. È una strada obbligata, la Cina l'ha intrapresa già da tempo e adesso sta rinforzando questa via. L'Islanda, per esempio, che era uno dei paesi più poveri d'Europa negli anni 70, ancora pescatori, contadini, quando ha fatto la svolta verde è riuscita a trasformarsi in un'economia appunto avanzata. Bene. Ed è riuscita a uscire dalla crisi grazie agli investimenti fatti nell'energia sostenibile, in particolare loro sono 100% verdi grazie alla geotermia, hanno una situazione particolare, ma grazie a questi investimenti sono usciti dalla soluzione crisi quando c'è stato il crack. È quella direzione. Grazie dottoressa, grazie dottoressa Catapano. Salamino. Dalla rottamazione alla ristrutturazione. Ah, la situazione è questa. La Seconda Repubblica è veramente finita. La Terza è stata dismessa con la povera ditta di Bersani e soci, e Matteo Renzi dunque salda l'asse con nuovo centrodestra e riporta indietro le lancette del suo Rolex. Insomma, è tornata la Prima Repubblica! Ma il presidente è toscano, e è un gran burrone, ha detto, e scherzavo, piuttosto che il Senato mi taglio un coglione. La Prima Repubblica! Insomma, Renzi, che non ha mai tollerato la parola rimpasto, piuttosto un completamento della squadra di governo, e la lettura del pezzo di Francesco Verderami oggi sul Corriere è assai istruttiva. Insomma, non sarà una formalità. Allora, sei sono i nomi, tra i quali il più squillante è quello dell'ex sindaco di Milano, Gabriele Albertini. Diventerà ministro e va da sé però che anticipare il voto sulle riforme in Senato è una formula di ricatto, un mezzuccio tipico di un'altra era. Mario, non credi? Quella di un Franco Evangelisti, no? Ricordate? Beh, oh, ma Frankett serve. Oltretutto, Giovanni, Franco Evangelisti, oltretutto, era fissato pure lui con i Rolex. Insomma, Renzi da rottamatore a ristrutturatore. E beh, farà però così l'ha chiamata del eh? Governo, sì, l'ha chiamata così perché non rimpasto, ristrutturazione l'ha scritto Verderami, quindi noi siamo ristrutturazione. E noi abbiamo capito, siamo tutti tuoi amici. Abbiamo capito appunto che sarà ristrutturazione. Allora, poi lui che cosa? Rimodulerà, perché poi è tutta una questione anche di parole, di indovinarle, quindi rimodulerà le commissioni del Senato, elargisce prebende a chi ha abbandonato Berlusconi, poi farà aggiustamenti alle segreterie del Partito Democratico, altro che la notte della Repubblica, è la notte, dimmi. Ho una domanda, i Verdini? Vedremo dei nomi. Infatti, abbiamo detto, quello è altro che notte della Repubblica, è la notte dei morti viventi, via! La prima Repubblica non si scorda mai. La prima Repubblica, tu cosa ne sai? Dei quarantenni pensionati che danzavano sui prati dopo 10 anni volati all'aeronautica e gli usceri parapetici. Ma chi è? Cioè io non so. È Zalone. E Checco. Vabbè, se non me lo dici, mi sembrava Celentano. A un certo vabbè, punto. Ma invece noi abbiamo anche Checco cantante, 54 milioni di 56. Ha superato se stesso. Ha superato battere Avatar. Un genio. Un genio. Anche ha ragione lui. Dottore se la cava. Bravo. Beato. Bolla Mario. Bolliamo. Giovanni, qua la situazione della Guerrera si fa molto interessante perché sta musichetta Empire Weekend degli Unbelievers, sentite un po'. Comincia a conciliarti con la Guerrera? Sai, con quegli occhioni Va bene, okay. Tutto è possibile, allora, per lei naturalmente. Allora, dai. Allora, no, volevo fare con te una considerazione su una notizia che viene dagli Stati Uniti, anzi dal Qatar più esattamente, ma riguarda gli Stati Uniti, cioè Al Jazeera in America non va. Il 30 aprile la televisione satellitare del Qatar chiude le trasmissioni del suo canale americano. Credo che da questa vicenda nata 3 anni fa, forse esatto, sì, si possono trarre, sì, diciamo, delle lezioni. La prima, la più banale se volete, ma le cose banali spesso sono anche, come dire, il fondamento di una sana esistenza, è che non basta andare in onda, cioè alla fine non... Il problema non è da dove vai in onda, il problema è che cosa dici? Al Jazeera dal sud del mondo, che parla al nord del mondo e racconta quel mondo, ha senso. Esatto. New York su New York, francamente, in arabo, francamente, poco, anche cioè, se poi più lo devi dire in inglese. Sono come quelli che sui giornali italiani spesso vogliono spiegare agli Wall Streeters come funziona Wall Street. Italiani non vendono sempre auguri a Repubblica. Oggi 40 anni, grande pezzo, festa. Simonetta Fiori di spalla su Repubblica. Quello che veramente ami è la tua vera eredità. Strappa da te la vanità. Non fu l'uomo che creò il coraggio, o l'ordine, o la grazia. Strappa da te la vanità, ti dico strappala. Cerca nel verde mondo quale luogo possa essere il tuo, nel raggiungere l'invenzione, o nella vera abilità dell'artefice. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666. Sms, un piccolo aiutino. L'aiutino è una complicazione, bisogna indovinare sia l'autore sia chi sta leggendo. Due libri a chi vince. E allora, guardate i bambini in mezzo a voi, oggi è festa, no? Quanti di loro sono vestiti a festa? I miei sono vestiti di stracci e anche quelli là in fondo. E allora, invece di vestir loro, vestiamo la Chiesa? Don Zeno Saltini, un prete risoluto e testardo, nel 47 occupa un luogo desolato, l'ex campo di concentramento di Fossoli. Un anno dopo nasce Nomadelfia, un luogo di gioia, una grande comunità che Don Zeno, appassionato di cinema, documenta con la sua cinepresa. Gli ospiti sono più di 1000, orfani, bambini abbandonati, coppie e volontari, tutti fedeli alla legge della fraternità e della condivisione. Don Zeno Saltini, l'uomo di Nomadelfia, muore il 15 gennaio dell'81, 35 anni fa. Il suo difficile cammino qui a Mix24, il giallo della storia dopo il giornale radio. Mix24. E adesso ancora una storia di coraggio, di innovazione che mostra il lato meno raccontato del paese e che come sempre arriva dalla rete Italia che cambia. Alessandra Fiori ha intervistato un altro di questi nuovi 1000, uno dei nostri agenti del cambiamento. Stretto dentro al cuore, che la politica sia ancora un'occasione. Oltre 15 anni fa, Giuseppe Lirosi ha riconvertito l'impresa di famiglia creando Terre Frumentarie, un'azienda biologica che coltiva le sementi tradizionali siciliane che erano state abbandonate. Giuseppe, perché ha fatto questa scelta? La scelta fu quasi... Senza pensarci, fu un atto di intuito. Mi affascinò il fatto che questi frumenti erano stati coltivati per migliaia di anni da altri contadini. E poi però scoprì tante caratteristiche anche grazie alla stazione sperimentale di granicoltura, dove li trovai. E la bellezza ritornò nei campi, perché eravamo abituati ai frumenti bassi, nanizzati, 80-90 centimetri. Questi frumenti cominciarono invece a esprimere la loro altezza, arrivare quasi anche a 2,20 metri. Ma oggi cosa producete con queste sementi? Con queste sementi produciamo farina, ma anche pasta, biscotti, plum cake, piadine, un po' di tutto. Quali sono però i vantaggi di utilizzare gli antichi semi della tradizione siciliana rispetto a quelli moderni? Allora, per un'azienda agricola è un abbattimento quasi assoluto dei costi, perché giustamente verranno seminati e coltivati in agricoltura biologica, quindi non dipendono benissimo poi dalle malerbe, quindi non c'è bisogno di utilizzare diserbanti o concimazioni chimiche, perché fanno delle radici molto profonde, quindi dal punto di vista agronomico c'è un grande risparmio. E poi hanno anche un glutine che è assolutamente diverso dai grani moderni ai quali ci hanno fatto abituare, perché hanno un glutine diverso come qualità, hanno un indice di glutine più basso, è molto più morbido, più soffice, quindi pare che questo coincida con una maggiore digeribilità. Anche perché non c'è grande presenza di creatina, che pare essere quella molecola, quella proteina che stia cercando la celiachia o la gluten sensitivity nella nostra società moderna. Ma quali sono le prospettive per i vostri affari? Intanto c'è una differenza fra un'azienda agricola in biologico che utilizza grani locali e una che invece applica l'agricoltura basata sull'industria chimica. Noi abbiamo più speranze. Le prospettive sono legate anche al fatto che oggi c'è un mercato più consapevole, più cosciente, cioè la gente inizia a capire che mangiare biologico o naturale è sicuramente una garanzia per la propria salute propria e dei propri figli, specialmente per i più piccoli. Ma quindi lei, scegliendo di passare da un sistema agricolo moderno a uno tradizionale, ha visto dimezzare la sua produttività, però l'azienda, invece di fallire, progredisce, anzi mi dice che ha più speranze di un'azienda normale, sì, moderna. Sì, non, non siamo falliti, anche perché abbattendo i costi tanto e poi riuscire a vendere il prodotto dandogli giusta dignità di prezzo. Oggi il prezzo del frumento normale, convenzionale, è una commodity e si basa sui 25, simile alla mangimistica animale, perché così viene trattato. Invece noi stiamo parlando di cibo di eccellenza. E che differenza di prezzo c'è? Ma quasi 3 volte superiore. Per altre informazioni su Terre Frumentarie e sulle altre realtà della rete di Italia che Cambia, www.italiachecambia.org. Giuseppe da Gallarate, buongiorno. Salve. È per il canzoniere, no? Certo. Ah, allora, chi è? Ha indovinato tutte e due le cose? Sì, è Pasolini che legge Pound. Giusto! Giustissimo! Sì. Pasolini che legge Pound, c'è tutto, sì, lì dentro, eh? Sì, c'è tutto, questa sintesi. Com'è? In memoria televisiva, non sì, librale, una grande trasmissione. Sì. Certo. Che cosa fa lei di bello a Gallarate, Giuseppe? Beh, ora sono a casa perché non sto bene, comunque io... Ah, vabbè, influenza di stagione. Sto bene, sto bene mentalmente però. Sì. E che cosa fa di mestiere? Io lavoro in un ente pubblico. Ah, bene. Allora la riforma della pubblica amministrazione vi spaventa? No. State tranquilli. No. L'aspettate nessun, fiduciosi. Nessun zalonismo. Zalonismo. Bene. Visto. Grazie. Allora, intanto si riprenda presto e auguri. Grazie. Mario, c'è ancora una bolla? Sì, sentiamo il nostro amico. Io non creo niente. Ah, mancava. Io e noi facciamo le regole. Le notizie, le guerre, la pace, le carestie, le sommosse, il prezzo di uno spillo. Tiriamo fuori i conigli dal cilindro mentre gli altri seduti si domandano come accidenti abbiamo fatto. Non sarai tanto ingenuo da credere che noi viviamo in una democrazia, vero, Buddy? È il libero mercato e tu ne fai parte. E allora, Gordon Gekko ci dice che forse non è una democrazia, però certamente è il mercato. Stamattina le borse sono giù. Di nuovo. Sì, il petrolio ha avuto un rimbalzino, era 30, poi ha fatto 30-50, ma la realtà è che era sceso sotto i 30 e quindi ha rotto una soglia psicologica importante per il mercato. Questo significa che le pressioni sul dollaro da una parte e la diminuzione quindi del prezzo del petrolio potrebbero portare veramente a quel target che ormai ha raggiunto un consensus molto, molto largo, perché Goldman Sachs, Morgan Stanley, tutti pensano che il petrolio possa arrivare addirittura a $20 il barile. Ricordi questo... che Scaroni proprio ce lo disse anche, qui in trasmissione. Anche Scaroni lo disse, esattamente. E, non sappiamo ovviamente cosa succederà, questo è il bello anche della borsa. È interessante però osservare la estrema forte volatilità che c'è. Tutto questo può sembrare un paradosso in tempi di crescita economica, che comunque esiste, perché la crescita americana è molto robusta. Certo. Anche i dati sull'impiego sono sì, i dati su diciamo, l'addizione di posti di lavoro è molto forte in America. Quelli europei sono a macchia di leopardo, però se noi guardiamo che ne so, Germania, il surplus commerciale della Germania, l'occupazione in Germania, che non è mai stata così alta dalla riunificazione eccetera, dimostrano che una ripresa c'è. Certo, c'è il rallentamento della Cina, ci sono i mercati emergenti che vanno molto male. È una ripresa di difficile lettura, perché non è lineare. Sì. No, non è lineare. Io penso questo, che in realtà l'anello debole sia proprio l'Europa. L'Europa e l'Europa del Sud in particolare. Sì, sì, i vecchi cosiddetti PIGS, sì. Portogallo, Italia, Grecia, Spagna. La Spagna c'è ancora 40% di disoccupazione giovanile, un tasso altissimo. Portogallo, problemi finanziari grandi, hanno fatto il bail-in di una banca non piccola qualche giorno fa. Insomma, io penso che il problema principale dell'Europa sia quello demografico. Siamo vecchi, con un welfare costoso. È sempre meno. Ecco, adesso il professor Roberto Bernabei, geriatra per l'appunto, combatte il gemelli di Roma. Olè. Con lui commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. BMJ 3 dicembre 2015. Il cammino rallentato può essere un segno precoce della malattia di Alzheimer. La malattia di Alzheimer è uno degli spauracchi maggiori, ne abbiamo parlato tante volte, perché è vero sì che la longevità è aumentata, abbiamo un'aspettativa di vita aumentata, ma il rischio di incappare, proprio perché si campa a lungo in una malattia che è età correlata, è un rischio elevato. E allora noi sappiamo alcune cose, che la malattia di Alzheimer è caratterizzata dalla deposizione di una sostanza, la beta-amiloide, nel cervello. Sappiamo anche che nell'analisi post-mortem dei pazienti con la malattia di Alzheimer si è capito che, si è evidenziato che nei periodi precedenti alla morte, nei periodi in cui la malattia di Alzheimer era conclamata, c'era anche un rallentamento della velocità del cammino. Io ho detto varie volte che la velocità del cammino è un segno di invecchiamento. Si diventa vecchi quando ci si rallenta, ma in questo caso si è visto che c'era una correlazione specifica misurata con la PET, che è questo esame che chiarisce quanta amiloide c'è dentro il cervello. Più amiloide c'è, più il cammino viene rallentato. Allora questo è importante perché può farci capire che se abbiamo un disturbo di memoria, che è il primo segno della malattia di Alzheimer, abbiamo un rallentamento delle nostre capacità cognitive insieme ad un rallentamento del cammino, bene, vale la pena andare da un medico che sappia cos'è la malattia di Alzheimer per eventualmente avere una diagnosi precoce della stessa. Solo con una diagnosi precoce, oggi ma soprattutto domani, avremo la possibilità di curarci di questa terrificante malattia. E per chiudere, Gloria Guerrera ha scelto L'animale di Franco Battiato. Vivere non è difficile, potendo poi rinascere, cambierei molte cose. Un po' di leggerezza e di stupidità. Fingere, tu riesci a fingere, quando ti trovi accanto a me, mi dai sempre ragione, e avrei voglia di dirti che è meglio se sto solo, ma l'animale che mi porta...